in primo piano. Buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli. Benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali dei quotidiani italiani. Come potete immaginare, le prime pagine sono dominate dai richiami e dalle fotografie ai tantissimi reportage, foto, storie. Alcune le avete sentite anche adesso nel GR, che suscitano naturalmente emozioni e commozione. Forse però chi di noi ha la fortuna, perché solo di fortuna si tratta, di non abitare in zone sismiche, di non avere parenti o amici che sono in qualche modo coinvolti dal terremoto di 2 giorni fa, di non aver scelto il centro Italia per le vacanze. Ecco, forse tocca a noi, a chi ci governa naturalmente, ragionare su cosa è successo, perché e che cosa si può fare. Quindi da qui la scelta che ho fatto stamattina di segnalarvi appunto soprattutto questo tipo di approfondimenti. E quindi sempre partendo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, la terra trema ancora con il bilancio, che speriamo questa volta sia quasi definitivo, 250 le vittime, però poi appunto vi segnalo tutti gli approfondimenti che poi trovate all'interno. Per esempio, per quanto riguarda il finanziamento della ricostruzione, qui c'è un balletto di cifre, però si tratta sicuramente di decine di miliardi. Donato Masciandaro, che è un economista, spiega come la finanza può aiutare la ricostruzione. Poi Bruno Forte, che è un collaboratore del Sole 24 Ore, ma forse soprattutto è l'arcivescovo di Chieti Vasto, quindi comunque conosce molto bene quelle zone, spiega il suo resoconto di che cosa significa solidarietà e fede in una tragedia simile e come siano in realtà proprio delle sfide. Poi come settimana scorsa vi ricorderete, quando dalle macerie di Aleppo era stato estratto quel bambino di 5 anni, quindi un bambino che è nato in Siria quando la guerra c'era già e ha vissuto tutta la sua vita in guerra, e la sua storia ce la raccontava la scrittrice Giulia Carcasi, e lo stesso oggi fa un breve intervento appunto dal punto di vista dello scrittore, il dolore che ci rende umili. Poi naturalmente tutto quello che riguarda il piano e le prime dichiarazioni fatte da Renzi, cioè ci sono subito 50 milioni, che naturalmente abbiamo detto ci vorranno decine di miliardi. Questi 50 milioni servono proprio per questi primi giorni di emergenza e sono stati stanziati immediatamente. Poi c'è invece il piano più a medio-lungo termine. Per esempio, la stima della Protezione Civile è che per mettere in sicurezza soltanto gli edifici pubblici servono 50 miliardi. A pagina 4 del Sole 24 Ore trovate la divisione per regione, delle regioni che ne hanno più bisogno e più urgenza di questi interventi sugli edifici pubblici. C'è un'intervista a Claudio De Albertis, che è il presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori, che suggerisce per esempio un piano antirischi che sfrutti anche la leva fiscale, quindi con degli incentivi. Un altro approfondimento riguarda le norme antisismiche, perché ovviamente non è che non ci siano in Italia le norme antisismiche. Proprio l'altro giorno citavamo l'articolo del costituzionalista Michele Ainis, che spiegava come in Italia ci sia un eccesso di leggi, poi il problema è come sono scritte, quanto sia possibile applicarle e quanto siano applicate. E così scopriamo anche in questo frangente che appunto le norme antisismiche esistono, ma sono bloccate da 6 anni. Se adesso, speriamo che questa ennesima tragedia sblocchi alcune cose, tra cui queste norme antisismiche, se ci fosse questo aggiornamento, ci spiega Giuseppe Lattura, pagina 5, dovrebbe essere facilitata la messa in sicurezza del patrimonio esistente. Poi Stefano Carrer, che è il corrispondente del Sole 24 Ore dal Giappone, ci racconta un po' quella che viene definita la lezione di Tokyo. Il Giappone è come l'Italia o come alcune zone degli Stati Uniti, per esempio la California con la famosa falda e questa leggenda che prima o poi arriverà quelli che i californiani chiamano il Big One, cioè il grande terremoto. Ecco, però la California, che è il più popoloso stato americano, grande come l'Italia, pensate, e il Giappone possono dare una lezione, il metodo Giappone per la prevenzione. Non quelle solo negli anni in cui ci sono le tragedie, riservano fondi al contenimento dei danni causati da eventi sismici e la popolazione viene educata all'emergenza. Questo è un altro tema che si è toccato spesso nei giorni scorsi, cioè come comunque nelle scuole, in tutte le scuole, anche nelle zone non sismiche, non ce ne sono molte in Italia, ma ce ne sono, potrebbe essere utile fare comunque dei corsi sempre per tutti gli studenti di qualsiasi età. È chiaro, è stato sottolineato tantissimo che sono anche situazioni archeologiche, territoriali, storiche diverse quelle di Giappone, California e Italia o di altri paesi ad alto rischio sismico, però comunque le norme per costruire case che resistano a terremoti di magnitudo 5, 6 come quelli di questi giorni ci sono e quelle potrebbero valere per tutti. Poi il modo di mettere in sicurezza i vari tipi di edifici a seconda della loro età, naturalmente deve cambiare, ma su questo mi sembra che dovrebbe essere la riflessione più importante, appunto, di chi può permettersi il lusso di lasciare da parte almeno un po', perché non è direttissimamente coinvolto, potremmo dire così, le emozioni e la commozione. Il Corriere della Sera, anziché titolare sul bilancio dei morti, anche altri giornali fanno questa scelta, titola sul bilancio dei vivi, perché è un record aver estratto 215 persone vive dalle macerie in così poche ore. Anche in questo caso, anche sul Corriere, tantissimi i commenti. Tantissimi reportage con le storie, le trovate tutti i giornali dedicano 15, chi 20 pagine al terremoto e molti, appunto, molte di queste pagine hanno foto e reportage, ma per esempio dal Corriere vi segnalo un articolo di Giovanni Caprara che ci spiega perché c'è lo sciame, questo termine che abbiamo imparato anche dopo il terremoto dell'Aquila del 2009, le scosse che seguono quella principale. E quindi, appunto, ci sono tre domande a cui Giovanni Caprara risponde, e il sommario dell'articolo è: la quantità delle scosse, in questo caso nel terremoto del centro Italia, è superiore a quella che si era verificata all'Aquila, e addirittura, perché gli esperti lo dicono chiaramente, non ci sarebbe ragione di mentire su questo, non si possono prevenire i terremoti, non si può dire quando si verificherà, si può invece, ci spiegavano, appunto, determinare, e queste mappe esistono, i rischi sismici, ma non si possono prevenire i terremoti, non si possono prevedere i terremoti, non si può neanche prevedere quanto durerà lo sciame, tanto che un esperto ha detto, appunto, senza nascondersi dietro falsi ottimismi, questo sciame può durare poche ore o diversi anni. Ma da cosa dipende una sequenza così lunga? La causa è legata al modo nel quale si diffonde la faglia, quindi gli strati sotterranei della terra, alle caratteristiche del suolo che incontra e che possono influenzare il cammino delle onde, amplificando o rallentando il fenomeno. Alcune similitudini con il terremoto attuale si riscontrano, pensate, nel sisma del 1639, anche se allora ovviamente i dati che si potevano raccogliere, che sono stati trasmessi, non sono precisi come quelli che possiamo raccogliere, trasmettere oggi e catalogare e analizzare. Un elemento può essere l'influenza di una faglia su un'altra, che può essere silenziosa perché non ha ancora raggiunto un accumulo sufficiente di energie tale da scatenare il sisma. In tal caso la rottura di una faglia innesca un'altra, provocando un aumento nel tempo dell'evento. Sempre dal Corriere della Sera vi segnalo, avete sentito forse anche nel GR, che comunque probabilmente ne arriveranno anche altre, però sono subito state aperte alcune inchieste, perché c'è per esempio il caso, quello della campanile della chiesa appena ristrutturata, che è caduto su una casa che probabilmente si sarebbe salvata se non fosse stato per questo campanile crollato. Però il fatto è, e ce lo raccontano Ilaria Sacchettoni e Mario Sensini sul Corriere della Sera, che in Italia molti comuni a rischio non usano i fondi, pur avendo, appunto, questi fondi che sono stati stanziati. Pensate che dopo il terremoto dell'Aquila, dei 963 milioni stanziati ne sono stati spesi pochissimi. Anche il Messaggero titola sul numero dei salvati, 215, e c'è anche un articolo di Oscar Giannino intitolato in prima pagina un prontuario per ribaltare anni di errori. Questa volta sembra davvero, anche un po' a giudicare dalla quantità di pagine dedicate alle cronologie, a ricordare, a fare paragoni con quello che è successo in passato, che si possa davvero imparare da quello che è successo o non è successo, che è stato fatto male prima dei terremoti, ma soprattutto dopo. Sempre dal Messaggero, le pagine interne, vi segnalo, perché anche di questo si è molto parlato, cioè del fatto che nella stessa zona, quindi più o meno con paesi colpiti dallo stesso tipo di intensità della scossa, alcuni paesi hanno resistito molto meglio di altri, e all'interno di ogni paese alcune case, anche magari più o meno della stessa età, hanno resistito meglio di altre. E si è molto parlato del caso di Norcia, che dopo l'ultimo terremoto era stata messa in sicurezza, pare, in un modo molto serio. Tanto che, per esempio, un caso particolare, lo racconta a pagina 5 il Messaggero, a Norcia regge la casa di San Benedetto e arrivano i caschi blu della cultura. Questa è una chiesa, appunto, che era stata completamente ristrutturata, e quindi questo forse indica, a onor del vero, poi ieri so, perché ho seguito questa vicenda perché mi appassionava, perché mi ricordavo dei restauri, a onor del vero i monaci sono stati evacuati, però la chiesa è in piedi, la chiesa ha resistito. Quindi quando si sente dire che noi abbiamo un patrimonio artistico e architettonico talmente antico che è difficile metterlo in sicurezza, sicuramente vero, però probabilmente anche grazie ai progressi dell'ingegneria sismica, di tutti gli studi che si sono fatti sui materiali, probabilmente, sicuramente a costi elevati o comunque proporzionati a questo tipo di intervento, è possibile mettere in sicurezza anche una chiesa senza, diciamo, snaturarla nel suo valore artistico e architettonico. Sempre dal Messaggero, una storia di come i cani che vengono utilizzati, le unità cinofile che vengono utilizzate in questi casi, ma li ricorderete anche per esempio tra le macerie delle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001, sono il loro naso. Sapete che il naso di un cane sente, credo, 1000 volte gli odori. Se noi sentiamo un odore, un cane ne può sentire 1000, quindi il fiuto dei cani viene definito in questo articolo a pagina 7 del Messaggero un radar per cercare i corpi sotto le macerie, e le razze più utilizzate, lo avete visto nelle fotografie, sono i pastori tedeschi, i Labrador e i Border Collie, e sembrano veramente non conoscere fatica. Avevamo già visto, appunto, in altre occasioni, si feriscono le zampe anche per quanto le si riesca a si cerchi di proteggerle, ma vanno avanti finché, quando smettono, non è probabilmente perché non hanno più energie, ma perché appunto il loro fiuto gli dice purtroppo sotto le macerie non c'è più nessuno da trovare. Un'ultima segnalazione prima di una breve pausa. A pagina 13 del Messaggero, un confronto, uno schema di confronto con tutti i dati, molto chiaro, molto sintetico, tra il terremoto dell'Aquila del 2009 e tutto quello che è successo a Amatrice nel 2016, cioè in questi giorni, quindi uno dei paesi più colpiti, e dopo vi leggerò un paio di numeri per far capire appunto come questo confronto comunque ci dia l'idea dei due eventi. E vi segnalavo dal Messaggero questa tabella che fa il confronto tra il terremoto dell'Aquila del 6 aprile del 2009 e quello di due notti fa, il 24 di agosto, e in particolare prende in esame, per quanto riguarda quello di 2 giorni fa, Amatrice. Per esempio, l'ora che fa veramente impressione, 3:32 l'Aquila, 3:36 Amatrice, e la magnitudo molto simile, 5:8 l'Aquila, 6 Amatrice. Molto diversa invece la profondità dell'ipocentro, 8,8 km all'Aquila, 4 km ad Amatrice. È uno dei motivi, naturalmente, ci hanno spiegato, per i quali è stato così devastante, perché era proprio 4 km sono tanti, ma sono anche pochi per uno ipocentro di un terremoto, e quindi così tante case sono crollate. A proposito della messa in sicurezza, sempre dal Messaggero, un'intervista a Armando Zambrano, che è il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Parlavamo appunto di quanto presumibilmente siano stati fatti progressi nei materiali, nelle tecniche di costruzione e quindi di messa in sicurezza, e quindi quanto adesso veramente tutto questo debba essere sfruttato al meglio. Zambrano dice: bastano 5,5 miliardi per mettere in sicurezza le case più a rischio. La Stampa, il titolo principale, La bella Italia sepolta dal terremoto, perché anche qui i censimenti variano, però quelle sono davvero zone ricchissime di monumenti, di chiese, di testimonianze di secoli e secoli di storia italiana. Vi segnalo anche il buongiorno di Massimo Gramellini, che con il suo stile in poche righe riassume quella vicenda, uno dei tanti commenti esecrabili che ci sono stati nelle ore successive al terremoto. Uno di questi è quello che riguarda i migranti. Scrive Massimo Gramellini: ma cosa c'entrano i migranti con il terremoto? C'entrano, c'entrano. Per parecchi nostri connazionali, teste sismiche e raffinatissime, lo scandalo dei disastri naturali in Italia non è rappresentato dalla mancanza di prevenzione e dall'eternità della ricostruzione. La vera vergogna è che gli sfollati dormono sotto le tende, mentre i migranti pasteggiano a champagne, stravaccati nelle suite dei loro hotel a 5 stelle. Nella nobile arte della ricerca di un capro espiatorio, ieri si sono esercitati in tanti, da Guido Bertolaso, noto esperto di prefabbricati abruzzesi scoperchiabili e di massaggi a pagamento altrui, e qui scusatemi, mi inserisco perché Guido Bertolaso era il capo della Protezione Civile al tempo del terremoto dell'Aquila. Sulla ricostruzione dell'Aquila sono poi scoppiate negli anni successivi innumerevoli polemiche, perché appunto queste case scoperchiate, come le definisce Gramellini, sono davvero, ci sono state davvero. E poi, tra l'altro, Guido Bertolaso è anche finito in un'inchiesta perché appunto avrebbe avuto da alcuni costruttori delle regalie, tra cui un abbonamento a un centro massaggi. Ma riprendiamo la lettura di Gramellini, dice Guido Bertolaso, e poi c'è anche un parroco ligure, tale Don Cesare, che ha spacciato la sua ricetta di mettere gli sfollati al posto dei migranti per, tra virgolette, cristianesimo, contraddicendo il titolare del marchio, ma ricevendo in compenso il plauso di Salvini. Il ruttodromo della rete ha dilatato l'ideona ed ha argomentato il dibattito, ostentando una fiera resistenza nei confronti della realtà. Nessuno sfollato vorrebbe allontanarsi adesso dai luoghi del dramma. I migranti non stanno in alberghi di lusso, ma nelle topaie, e dei 35 euro al giorno a loro destinati, soldi europei peraltro, nelle tasche dei profughi ne entrano non più di due. Per cui l'indignazione andrebbe semmai indirizzata agli italiani che ci lucrano sopra. Mi associo alla richiesta del signor Pierpaolo Ascari, issare fino al diploma di terza media certi pensatori del web, eppure certi parroci, è costato alla collettività 63.900 euro, fanno circa 38 euro per ogni giorno di scuola. Si possono cortesemente riavere indietro? Questo sì, sarebbe cristianesimo. E sempre a proposito di numeri, perché appunto sono talmente tanti gli aspetti da raccontare, talmente tante le storie, che a volte questi schemi con pochi numeri ci danno un'idea di quello che sta veramente succedendo. E La Stampa, pagina 3, riassume la giornata con una decina di numeri, tra cui per esempio 250 le vittime, i feriti per ora 365, 215 gli estratti vivi. E pensate, 400 solo ieri le repliche, cioè questo sciame di scosse, e poi 2.500 i volontari e 2.000 le sacche di sangue raccolte nel Lazio. E in questo slancio di solidarietà, sapete che adesso l'Avis ha addirittura detto grazie a tutti quelli che sono venuti a donare il sangue, lo hanno donato in tutte le regioni d'Italia, in questo momento pensiamo di avere la quantità giusta. Per La Stampa, a proposito, vi dicevo di fare i confronti con quello che è già successo in Italia: Valle del Belice, Friuli, Irpinia e Abruzzo, la ricostruzione ci è costata oltre 120 miliardi in 50 anni. Vi segnalo anche dalla stampa, l'ho trovata anche su Repubblica, c'è un disegno che è molto chiaro per capire cosa sono veramente queste misure antisismiche di cui si parla. E pensate che, come spesso si scopre, in Italia ci sono anche dei geni in tutte le discipline, comprese quelle scientifiche. Ebbene, noi magari brevettiamo alcune di queste misure antisismiche e poi le esportiamo, perché all'estero le poi utilizzano, ma come dicevamo, qui in Italia i fondi per queste strutture o per altri interventi di messa in sicurezza del territorio, perché poi bisognerebbe aprire anche tutto il capitolo del rischio idrogeologico, perché qui in Lombardia, per esempio, terremoti grandi non ne abbiamo visti, però abbiamo visto tantissime inondazioni, quindi c'è tutto quell'altro problema di messa in sicurezza del territorio. Ma come vi dicevo, in questo disegno quindi si può capire che cosa sono questi tendini di acciaio, di cui per esempio abbiamo parlato, gli isolatori alla base, quindi da mettere sotto le case, oppure dei rinforzi strutturali. È proprio un disegno chiarissimo che trovate alle pagine 12 e 13 della Stampa. La Repubblica titola Senza tregua, la foto è quella dei soccorritori che hanno lavorato anche di notte grazie a dei gruppi elettrogeni. E anche in questo caso, anche la Repubblica ha un disegno abbastanza simile a quello della Stampa, alle pagine 16 e 17. In questo caso il titolo è A prova di sisma, cuscinetti speciali e pilastri, così le case possono resistere. Il Fatto Quotidiano oggi titola almeno 250 morti, che cosa fare perché siano gli ultimi. Molto propositivo anche il Fatto Quotidiano oggi, anche con l'editoriale di Marco Travaglio, che però è già pessimista dal titolo perché dice consigli inutili. Vi leggo le prime righe, però poi davvero c'è un elenco di cose, che una ricetta che credo sia inconfutabile e che poi è proposta anche naturalmente da tantissimi altri giornali, compreso il Sole 24 Ore, e però non con questo pessimismo iniziale di Marco Travaglio, perché il pezzo inizia così. Avvertenza per i lettori: questo articolo è quasi certamente inutile, come tutti quelli che abbiamo scritto, non solo noi, dopo i terremoti in Emilia, in Abruzzo, in Umbria. Però, non avendo altra arma che la penna, lo scriviamo anche questa volta, nella segreta speranza che un domani, chissà, una classe dirigente finalmente degna di questo nome ne ritrovi qualche brandello in fondo a un cassetto o in una bottiglia alla deriva del mare. Tra i tanti reportage vi segnalo quello del Fatto a pagina 3, gli sfollati nelle tende tra sollievo e dolore, ma qui fa già freddo perché siamo alla fine di agosto, ma in quelle zone, in particolare tra l'altro in Abruzzo, le temperature di notte possono scendere molto, quindi sicuramente sarebbe stato ancora più disastroso un terremoto in un'altra stagione, ma comunque di notte le temperature scendono molto. Un altro approfondimento del Fatto, lo trovate a pagina 5, un affare chiamato Sisma, come evitare donazioni ai furbi. Si sono veramente moltiplicate tutte le iniziative, soprattutto quella per esempio dell'SMS solidale, promosso quasi immediatamente per proventi che andranno tutti alla protezione civile, il numero è il 45500, e Barbara Cataldi ci racconta: attenti alle associazioni che chiedono soldi senza indicare come verranno spesi. Ancora, come potete immaginare, tantissimi altri approfondimenti. Parlavamo del problema di mettere in sicurezza il patrimonio architettonico. Salvatore Settis, storico dell'arte, che si è occupato per tutta la vita di questi temi, lo viene intervistato dal Fatto da Silvia Truzzi. Salvare case e vite è un valore superiore ai vincoli di bilancio. E qui naturalmente si lega poi al tema che vedremo sviluppato nei prossimi giorni, ma già oggi anche sul Sole 24 Ore trovate un articolo di come per esempio utilizzare o chiedere all'Unione Europea degli stanziamenti extra, per esempio appunto utilizzando quelli che vengono definiti i fondi strutturali, oppure addirittura mettere molto in chiaro già da adesso che si sforeranno i vincoli di bilancio perché c'è questa emergenza che richiede fortissimi stanziamenti pubblici. All'interno del giornale vi segnalavo già che l'Avis ha detto: abbiamo tantissimo sangue, possiamo anche per ora rallentare il ritmo delle donazioni. E Giuseppe Marino ci racconta che addirittura ad Amatrice si rischia il caos per la troppa generosità. Che cosa significa? Che la Protezione Civile ha detto, perché anche queste cose vanno dette, il rischio dei soccorritori va ridimensionato, il numero dei soccorritori va ridimensionato perché serve tranquillità. Sono arrivati naturalmente da tutta Italia, e però è difficile, più persone ci sono con tutta la buona volontà possibile e più beni di prima necessità arrivano, ma anche più difficile diventa organizzarli e distribuirli con cura. Quindi anche in questo caso la Protezione Civile stessa ha detto: fermiamoci un attimo e aspettiamo, e vi diremo poi, cercheremo di aggiornarvi il più frequentemente possibile su cosa serve dove. Anche il giornale si dedica al caso Norcia, meno bella ma sicura, la lezione di Norcia dove le case resistono. Dopo il sisma del 79, seguì l'esempio del Friuli, lì il sisma era stato nel 76, e ricostruì con regole antisismiche e ora le palazzine non crollano. A proposito ci leghiamo a quello che scriveva Massimo Gramellini sulla Stampa, perché Libero titola Stato criminale, mette due foto. Una è quella della palestra, che è uno degli alloggi improvvisati per gli sfollati, e l'altra è quella dei profughi in un albergo, questi alberghi a 3 stelle. Sopra la foto della palestra c'è scritto vittime del sisma in palestra, sopra la foto dell'Hotel Plaza c'è scritto profughi in albergo. E l'articolo principale è di Vittorio Feltri, il direttore. C'è anche un articolo di Franco Bechis, avete sentito anche nel GR, c'è stato un arresto ieri di uno zingaro e Franco Bechis racconta questa vicenda, gli zingari sciacalli presi con la refurtiva in mano. E poi anche Libero dedica spazio a quello che viene definito l'esercito a 4 zampe, c'è la foto di questi soccorritori con al guinzaglio tutti i loro cani, in questo caso oltre ai border collie che abbiamo sentito sono molto utilizzati, cani peraltro sono anche i cani pastore, sono cani intelligentissimi, forse tutti i cani sono intelligenti, ma questi cani hanno questa intelligenza particolare, questo fiuto particolare, e si è capito nel corso degli anni che sono tra i più adatti in queste situazioni di emergenza. Ma ci sono anche dei labrador e sullo sfondo si vede un cane che potrebbe essere una specie di incrocio tra un husky e un pastore tedesco. Premier e ministro dell'interno lodano pubblicamente le gesta del labrador Leo, che è uno che ha salvato un bambino, ma sono tanti gli animali utilizzati fra le macerie arrivati da tutta Italia, dalle unità cinofile di tutta Italia. Buongiorno, buongiorno ancora da Giulia Crivelli, anche agli ascoltatori che ci stanno scrivendo messaggi al 349-238-66. Non tutti lusinghieri per me, ma pazienza, è chiaro che non si può sempre piacere a tutti, anche se magari Piero poteva evitare alcuni insulti, mi dà della semplice maestrina comunista incompetente. E qualcun altro invece ha apprezzato anche la lettura di Gramellini. Io non sottoscrivo niente, non ho scritto nulla di quello che leggo, semplicemente faccio una selezione e spero solo di darvi degli spunti di riflessione. Ma dicevamo, dedichiamo quest'ultima parte della rassegna stampa agli altri argomenti, perché ieri quando c'è stata la seconda conferenza stampa serale del governo si è parlato delle altre misure che erano state discusse al Consiglio dei Ministri, che era in programma naturalmente prima del terremoto. A proposito, un altro ascoltatore attentissimo mi segnala che in realtà non era la stessa ora, cioè oltre le 3:30, perché all'Aquila in aprile c'era già l'ora legale, e quindi lui dice 2:32, non 3:32. Quindi grazie a questo ascoltatore così attento, si chiama Luca. Dicevo, gli altri provvedimenti che erano all'esame del Consiglio dei Ministri, per esempio questo percorso che va avanti della riforma della pubblica amministrazione, si è deciso per esempio ieri una nuova stretta sugli alti dirigenti, quindi varato un decreto per i tagli di stipendio in caso di valutazione negativa degli altri dirigenti, almeno il 30% della busta paga sarà appunto legato ai risultati. Dal dorso di Imprese Territori continua l'inchiesta sulla quella che viene definita Industria 4.0, cioè le nuove frontiere dell'industria italiana, che, come ricordo sempre, noi siamo il secondo paese manifatturiero in Europa dopo la Germania, l'industria è importantissima per la nostra economia. La puntata di oggi è di Luca Orlando ed è dedicata a tutta la provincia di Varese, la provincia, in teoria le province non esistono più o non dovrebbero più esistere, però per individuarla, individuiamola così, e quindi con tra l'altro i dati di un'università appunto vicino a Varese, che è quella di Castellanza, dove ci sono molti laboratori per esaminare le nuove frontiere, quindi soprattutto quelle che riguardano l'uso della tecnologia nelle imprese della Lombardia e in particolare di Varese. Finanza e Mercati naturalmente ci aggiorna sulla vicenda Vivendi Mediaset, con questo quello che viene definito uno scontro totale su Premium. Ricorderete, tutto è iniziato con l'offerta da parte del colosso Vivendi di comprare Mediaset Premium, poi c'è stata una marcia indietro ed è stata, potremmo dire, talmente maldestra che adesso c'è una causa in atto con una richiesta da anni da parte di Fininvest, che controlla Mediaset e Mediaset Premium, a cui adesso si sta cercando di trovare un patteggiamento, un negoziato. L'approfondimento in questo caso sul dorso, oltre appunto a queste ultime schermaglie, è su quanto è diffusa la pay TV in Europa, perché Mediaset Premium è appunto un tipo di pay TV che vuole fare concorrenza alle altre pay TV che esistono in Italia. La consueta iniziativa del Sole, che dura da tutto il mese di agosto, il focus estate con tutte le indicazioni per i professionisti, ormai credo che siano quasi tutti già tornati al lavoro, la puntata di oggi è dedicata alle operazioni straordinarie che vengono fatte all'interno delle società, quindi per esempio fusioni e scissioni, ma anche tantissimi altri aspetti, tipo la retrodatazione a fini fiscali per gli atti entro il 31 dicembre, per dirvi quanto si entra nel tecnico in questi focus per i professionisti. Due aggiornamenti sulla Turchia, di stampo un po' diverso. Uno dal Corriere della Sera, che ha questa foto di questo ponte impressionante, il terzo ponte sul Bosforo, che unisce quindi Asia ed Europa, perché sapete che Istanbul appunto da una parte è, possiamo definirla, parte dell'Asia, dall'altra parte dell'Europa, e viene definito un successo italo-turco perché la costruzione di quest'opera hanno contribuito tante aziende italiane e soprattutto la Staldi, e quindi è un successo italo-turco, però Francesca Basso ci dice anche che è un nuovo simbolo di potere per Erdogan. E a proposito di Erdogan, sul Foglio, questo è sicuramente una ponti, io mi ricordo un ingegnere della Arup che, parlando del ponte sullo stretto di Messina, diceva: i ponti sono sempre una buona notizia perché collegano, uniscono. E quindi questa del ponte sul Bosforo, oltre al fatto che l'Italia ha avuto un ruolo fondamentale, le aziende italiane hanno avuto un ruolo fondamentale, è una buona notizia, ma vediamo anche l'altro aspetto di quello che sta succedendo in Turchia, cioè questa stretta di Erdogan dopo il golpe fallito del 15 luglio. Quindi il Foglio riprende un articolo, un'inchiesta del Wall Street Journal, che spiega come la stretta di Erdogan sul mondo accademico sia, secondo il Wall Street Journal, e il Foglio che riporta e commenta questo articolo, il piano per islamizzare le facoltà e allontanarle dall'Occidente. Dopo il tentato golpe del 15 luglio, il Ministero dell'Istruzione ha licenziato più di 27.000 dipendenti. Il Consiglio di Istruzione Superiore di Ankara ha costretto tutti i 1.577 presidi delle facoltà universitarie a dimettersi. Ora basta possedere un libro di Gülen, sapete, il predicatore una volta alleato di Erdogan, poi suo grande nemico, e tanto da essersi autoesiliato negli Stati Uniti, e basta appunto possedere un libro di Gülen per essere espulsi dagli Atenei. Erdogan ha dichiarato più volte che, secondo lui, dietro a questo fallito golpe c'è Gülen, ha chiesto agli Stati Uniti ufficialmente l'estradizione di Gülen, e vedremo come si muoveranno le diplomazie nei mesi prossimi. A proposito dell'altra vicenda di cui si è parlato tanto, il divieto approvato in Francia al cosiddetto burkini, quel costume inventato, questo neologismo terribile tra burka e bikini, un costume che copre praticamente interamente la donna e che quindi sarebbe conforme ad alcune presunti precetti dell'Islam, cioè che la donna si deve coprire interamente, e il premier Valls ha difeso ieri questo no ai burkini, che tante polemiche sta scatenando, anche perché abbiamo visto quella foto effettivamente abbastanza impressionante di quattro militari che dovendo applicare la legge, cioè applicare la legge che prevede che il burkini non si può usare in molte località balneari francesi, hanno circondato una donna che aveva, erano tra l'altro armati, ma questo perché è una questione di sicurezza. Anche nelle nostre città vediamo negli ultimi dagli attentati, in realtà dell'ultimo mese abbiamo visto un aumento dei militari armati che presidiano e danno sicuramente un senso di sicurezza. Quindi questi quattro militari erano armati in spiaggia, hanno circondato la donna, non abbiamo sentito l'audio o di quello che è stato detto, però le foto dicono appunto che la circondavano e che lei è stata costretta a togliersi questo burkini, delle immagini abbastanza impressionanti. Oggi però, e qui c'è l'attacco di cronaca, è attesa la decisione del Consiglio di Stato francese, che deve pronunciarsi sul divieto del costume indossato dalle islamiche, perché appunto questo divieto è stato introdotto in alcune località, però per come è organizzata la macchina legislativa francese e soprattutto per tutte le polemiche che poi ci sono state dopo, tra l'altro anche un ricorso delle comunità islamiche che ha definito queste norme anticostituzionali, adesso appunto si deve esprimere il Consiglio di Stato. Altra questione di cui ci siamo occupati tanti nei giorni scorsi, ne parlavamo, del bambino di 5 anni estratto dalle macerie di Aleppo. Sulla Repubblica due pagine, sulla Siria, una appunto su Aleppo, Marco Ansaldo, perché oggi il Kerry, il vicepresidente americano, incontra Lavrov a Mosca, mentre la Turchia rafforza la sua posizione in Siria. Sfugge a un attentato il leader dell'opposizione anti-Erdogan. Questi gli aggiornamenti appunto sulla questione siriana. Però ad Aleppo, ci rende conto anche Repubblica, sono stati uccisi altri bambini, e l'ONU ha detto, lo avevano già detto altre organizzazioni, che quasi certamente sono state usate armi chimiche. Vi segnalo dall'Avvenire un'altra notizia, che è sicuramente una buona notizia, perché ieri a Cuba è stata firmata quella che viene definita un'intesa storica tra il governo colombiano e le FARC, i combattenti. Di fatto in Colombia c'era una guerra civile che durava da 50 anni. Fino all'ultimo le delegazioni hanno lavorato ai dettagli, poi l'annuncio in TV del leader Santos. I cittadini hanno in mano la chiave del futuro. Dopo 4 anni di trattative e oltre mezzo secolo di guerra civile, resta da far accettare il testo alla gente chiamata a ratificarlo. I vescovi sono intervenuti sulla vicenda dicendo: tutti devono capire la portata di questo evento. E anche in questo caso tre numeri che danno l'idea di questo conflitto, speriamo davvero finito: 260.000 le vittime, in prevalenza civili, di 52 anni di guerra tra FARC e esercito, 9.000 i guerriglieri attualmente in attività nelle zone della Colombia controllate dalle FARC. Nel 2000, pensate, erano 24.000, quindi quasi tre volte tanto. 7 milioni sono gli sfollati interni del conflitto, che ha di fatto coinvolto tutto il paese, tutta la Colombia. Un altro fatto di cronaca politico, anche qui forse ogni tanto ce ne dimentichiamo, ma la Spagna, per via dell'impasse dopo le prime elezioni politiche e anche dopo quelle anticipate, perché appunto si doveva cercare di formare un governo, la Spagna è ancora senza un governo. E allora Libero titola: senza governo si vive meglio, vedi la Spagna. Il record era del Belgio, il Belgio che appunto un anno fa era rimasto senza governo per molti mesi. Un altro paese fa meno dei politici, sono 8 mesi che la Spagna non ha un governo, però intanto, ci ricorda Libero, il PIL cresce più del previsto, i disoccupati calano e i consumi crescono. Un aggiornamento anche sulla vicenda MPS, a pagina 23 del giornale. Ci sarebbero in corso dei cambi ai vertici, il management apicale ma anche l'amministratore delegato, secondo l'articolo del giornale, le indiscrezioni raccolte da Camilla Conti. A Siena si studia una soluzione soft per evitare gli errori di Unicredit. Sapete che Unicredit aveva dimissionato l'allora suo amministratore delegato Ghizzoni e poi c'era stata una sorta di vacatio, poi è arrivato il nuovo amministratore Mustier. Ma in tempi come questi ogni giorno è importante per la ristrutturazione di una banca, e ora appunto si parla addirittura di un nuovo amministratore delegato. Ultimo aggiornamento sempre dagli esteri, dal Fatto Quotidiano, sulle presidenziali, sulla corsa verso la data dell'8 novembre, quando si voterà in America per il nuovo presidente, le ultimissime dichiarazioni di Trump: io sono come la Brexit. Trump chiede aiuto a Farage, Nigel Farage, il politico inglese degli UKIP, che è stato uno dei più forti sostenitori della Brexit. Era però l'ultima segnalazione per oggi. Ringrazio Peter Bescapè in regia. Vi invito ancora appunto a mandare i vostri messaggi o a inviarne anche al mio account Twitter Giulia_Crivelli. Una buona giornata a tutti da Giulia Crivelli.